Adepti e adepte, possiamo incominciare un'altra Radio Roma. Sugli social. Podcastesimo. Colo, polacco. Un'altra Radio Roma. Nuova religione, il podcastesimo. Podcastesimo. C'è il podcastesimo. Un'altra Radio Roma. Podcastista. Un podcastista. Podcastesimo. Un'altra Radio Roma. Signore Santissimo Podcast della regione del podcastesimo. Ci avevano fermato, ragazzi, ma il podcastismo va avanti, un'altra Radio Roma. Si dissocia. Podcastista, un podcastista. Un'altra Radio Roma. Si dissocia. Un'altra Radio Roma. Podcastismo. Nuova religione, il podcastismo. La religione è un movimento. Si dissocia. Io sento squillare qualcosa, già ci sono venuti a piazza. No, no, sei cretino. Un consueto buon momento a tutti. Beh, come abbiamo passato questa nostra estate? Io personalmente non sono riuscito né a trovare la giusta pace e né tantomeno la giusta rilassatezza interiore. Tutto ciò è stato causato dalle continue novità economiche a livello mondiale nonché nazionale. Ma poi forse in realtà non erano così tanto una novità. Già inconsciamente infatti sapevo che sarebbe finita, tantomeno sarebbe entrato in crisi questo nostro sistema capitalistico e finto democratico. Certo, non dico finto così casualmente, perché quello che noi pensiamo e vorremmo è rappresentato solo da una croce, che via via con il tempo diventa sempre di più un punto interrogativo. Tutto ciò avviene in modo talmente ben congeniato e frutti di anni di studio che ci ha spinti a divenire esseri privi di qualsiasi opinione. In sintesi, non riusciamo più noi stessi ad essere critici e propositivi. Aspettiamo sempre che faccia il primo passo qualcun altro, esattamente come i pecoroni, tant'è vero che è così che ci hanno messo, a pecoroni. Orbene, questo sistema ha un nome ed è il sistema democratico indiretto. Ormai ne sono convinto che sia il peggiore di tutti i sistemi e me ne assumo le responsabilità di quello che sto per dire, che sia anche peggiore di quello dittatoriale. Perché nell'ultimo caso almeno ci sarebbe un volto su cui sparare. Qui invece tutto sfugge, tutti vincono e a perdere rimaniamo solo noi. Solo che questo sistema, come tutti i sistemi, si sta rompendo. Ciò sta avvenendo all'unisono in tutto il mondo, sotto i nostri occhi, anche in casa nostra. Infatti il Presidente del Consiglio non potrà mica campare in eterno. E infatti credo e mi auguro che prima anziché poi andrà a riempire quello scempio di mausoleo che è degno solo di lui. E noi a quel punto che cosa avremo? Avremo il nulla, avremo il vuoto. Ed è quel vuoto da riempire a cui noi oggi dovremmo pensare. Intanto, rimanendo nell'illecito, io oggi uso la mia unica arma che mi è rimasta. E sarebbe quella di fare esattamente il contrario di quello che mi viene insistentemente chiesto di fare dalla maggioranza delle persone. Mi viene chiesto di spendere, ed io invece risparmio. Mi viene chiesto di credere nel lavoro e io invece credo solo nel mio tempo libero. Mi viene chiesto di credere che i tagli economici siano necessari, quindi credo che sono ingiusti. Mi viene detto che tutti pagano le tasse ed io dico che il contributo di solidarietà lo paghiamo solo noi. Mi viene detto della lotta all'evasione e io gli chiedo chi è arrivato primo. Mi vengono dette le ragioni del pacifismo e io dico le ragioni della legittima difesa. Mi viene detto che le guerre sono necessarie per la democrazia e io dico che la pace è necessaria contro le dittature. Mi viene detto che un Dio è meglio di un altro ed io dico che Dio non esiste. Mi viene detto che l'extracomunitario sia un pericolo da respingere e io dico che invece è un bene da accogliere. Mi viene detto che il Papa è un beato, ed io ricordo che beatamente stringeva la mano di Pinochet. Dicono che Berlusconi vuole andare via da quest'Italia di merda, ed io rispondo che rimanga nella merda la merda. Dicono che l'euro era necessario, mentre ora è il nostro problema. E io dico che dopo non ci saranno più soldi che risolvano il nostro problema. Dicono che non c'è più lavoro per i giovani, e io dico che i giovani nascono già vecchi e senza lavoro. Dicono che non ci dobbiamo preoccupare, ed io dico che è il caso di iniziare a preoccuparsi. Dicono che i ricchi sono la benzina dell'economia, e io dico che l'energia alternativa è la ricchezza dei poveri. Dicono che l'acqua è un bene primario, ed io dico che ci venderanno pure quella. Dicono che la legge è uguale per tutti, e io dico che tutti sono diversi. Dicono che uniti si vince, ed io dico che divisi si sta più comodi. Dicono che la cultura non serve, e io dico che la cultura va servita. Dicono dividi ed impera, ed io dico impera sto cazzo. Dicono che l'amore non esiste, ed io dico che non esiste chi lo dice. Dicono che sono pazzo, ed io gli dico che non hanno sempre ragione. Schiavo è chi trova la sua riscossa nel conforto di una gabbia più grossa. Sputa nel piatto del tuo padrone la sua carota, frusta più del suo bastone. Resisto e fomento, io non esisto vivo, non mi accontento, me lo ripeto 100 volte e capisco che è vero. In cielo c'è l'azzurro ma io vedo tutto nero e sono fiero di un dolore sincero che giorno dopo giorno invigorisce il mio animo da guerriero. E dico scegli, o li servi o li sovverti, questa è la vita, bello, e non c'è tempo per gli incerti. Ti braccano e devi stare attento, se non vuoi spostarti in base a dove fischia il vento. E c'è chi spara per dovere, molti per piacere, c'è chi sta in attesa e per legittima difesa spara ancora più forte, si gioca la sua sorte, il prezzo della vita ha pagato con la morte. Purtroppo è così, in posti assai lontani dove tanta gente non sta comoda sui divani, ed ogni attimo che passa è un minuto guadagnato per chi già sa che il suo futuro sarà rubato. Futuro compromesso in nome del progresso. No, non hai tempo per pensare a te stesso, e mentre dall'altra parte la vita ti sorride, il tuo menefreghismo è un'altra arma che uccide. Muoiono piano bimbi, guarda che sgomento, quando il denaro prende il sopravvento su ogni sentimento, di su ogni sentimento, quando il denaro è punto di riferimento, fai si vive soffrendo, si guarda piangendo, si muore gridando, e mentre sto cantando la rabbia sta salendo, la mia anima è un incendio e l'adrenalina adesso funge da benzina, allora brucia la terra, fermiamo questa guerra, brucia, brucia il fascismo, brucia il qualunquismo, brucia, brucia il politico che produce schiavismo, brucia, brucia ogni forma di capitalismo, ripeto, brucia la terra, fermiamo questa guerra, brucia, brucia il fascismo, brucia il qualunquismo, brucia, brucia il politico che produce schiavismo, brucia ogni forma di capitalismo, ma valori scendono, finti bisogni affiorano, amici persi ma che non si dimenticano, sogni impossibili per questo non si lasciano, e poi problemi fanno crescere, si affrontano, rischia pensando alle occasioni bruciate, ma attenta a quella gente che vende scelte affrettate, parassiti lobotomizzati che tu puoi vedere, gente che non ha niente da dire, che non sa tacere, metti da parte le tue indecisioni, prova a chiarire le contraddizioni, gioca col fuoco che sotto e dopo ogni botta resta serena e continua la lotta, sbaglia col tuo cervello e guarda bene dentro di te, dopo chiediti perché sono sconnesso dalla fame di successo, per quello che ho da dire non esiste compromesso, e confesso che scambio spesso il sacro col profano, ma la rassegnazione è un suicidio quotidiano. Se in una stanza in cui tutti hanno un cappello, devi allinearti a persone che ce l'hanno dello stesso colore del tuo. I colori sono due, le persone sono sparse e tante, non puoi fare domande, come farai? L'unica soluzione è mettersi in mezzo, due persone col cappello del colore opposto, così di sicuro non sbagli posto. Chi ha paura di sbagliare sta nel mezzo, vuole, deve allinearsi. Toglietevi di mezzo, avete forse paura di impazzire? Come non essere bipolare in una società intrinsecamente dualista? Un bipolare è risultato di un conflitto sociale più profondo. Curarle come alleviare i sintomi, bisognerebbe curare il mondo, insegnarle a pensare la pluralità. Al di là, chi oggi ci creda, pensa ancora all'al di qua e l'al di là. Per questo le polveri di un'eruzione sferrano un attacco non solo agli aerei, ma alla rigida scissione cielo-terra. Eppure dovremmo essere abituati al fatto che il benessere ha un prezzo. Non è la natura che è cattiva, è l'umanità che sta nel mezzo. Esco dalla stanza piena di cappelli, faccio cappelle, piercing alle tue teorie, perché anche la coscienza è una pelle. Surfo su curve di Gauss, creando un'anomalia. Mitraglio superfici per trasmutare la coltellamento dei corpi in una nuova psichedelia. Sfondo piani mentali, ma la vista dall'alto non è per se sana, è una fiera. Dai, tutto il mondo una fiera. Siamo bruni, chi? Nubi, dopo la scienologia, ora ciò che serve una meteorologia applicata ai vissuti, primo grado, le relazioni sono concatenamenti contingenti che mutano i componenti, devorandoli senza che essi ne siano necessariamente coscienti, secondo grado, l'irrigidimento di uno dei componenti, porta processi univoci stupidi e violenti, più che efficienti, il soggetto che tratta l'altro da oggetto, uomo e automa, non cambi mai, l'unico tuo cambiamento è l'usura, uomo donna, terzo grado, relazioni metacostruttive, creazione di relazioni, forme di relazioni relative alle problematiche più vive, ovvero opposte alla nostra, gioco sporco che soffoca il non umano, oggi che persino il mare si inchiostra, il primo grado è il piano, il fuori che sta dentro, a sta teoria plurinterpretabile, più che ambigua, che ora sto esponendo, ma non mi sento importante per quello che dico, proprio perché l'importanza stessa dell'io scompare in ciò che dico, scrivo solo ciò che mi deborda, come un'eruzione, è il mio mezzo, il mio messaggio, almeno nella mia autofruizione, come chi paga per chiacchierare con degli accompagnatori erotici, consuma complimenti, non è interessato al loro valore di verità, sono concatenamenti, è la svalutazione della realtà, già la TV ottiene potere facendo compagnia, al di là della sua veridicità, non capirlo porta domande degne di un bimbo, ma quel video di YouTube ritrae un evento vero, finto, paradosso del cacao, meravigliao, star, figa, jingle, sigla, coreografia, core al market, arte, realtà, ciao! Bene, andiamo a spendere due parole per i gruppi sinanzi passati. Il primo gruppo che andava sotto la mia voce erano appunto i Pulverstones, tratti dall'etichetta indipendente Astorbell. Dopodiché, da Jamendo ho tratto fuori l'Armata Branca Leone, da non confondere con il più noto gruppo, l'Armata Branca Leone. Loro infatti hanno fatto solo due album, uno nel 2010 e uno nel 2011, e loro sono di Roma. Dopodiché, sempre da Jamendo, ma loro sono di Palermo, ho passato un pezzo dei Gente Strana Pos, dove la traccia si intitolava Brucia. Poi volentieri sono andato a passare Diego Fernandez, tratto anch'esso da Jamendo. Dopodiché ho cambiato totalmente, perché sono andato a scovare un sito, o meglio, una net label, dove appunto mi hanno proposto Zona Mac, che lui è di Rimini, e lui nasce dalla crew di Ocho Tokyo. Loro appunto lavorano dal 98 e la canzone si intitolava Relazioni Cosmiche. Ed ora con piacere vi passo il nuovo cantautore, che sarà quello del futuro, Mauro Mercatanti, tratto da Anomalo, con il pezzo Le chiacchiere stanno a zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Qui dove noi fabbrichiamo perline colorate per perline con un filo sottile che ne fa collanine, che poi dopo noi ce le mettiamo addosso intorno al collo e se la vena si ingrossa stringono. Le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, a zero stanno le chiacchiere, l'occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. Libertà di stampa, libertà di espressione, libertà di pensiero e di parola, bla bla bla. Ma già lo sai, quello che diranno, quello che diremo, quello che dirai. tu già lo sai. Le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, a zero stanno le chiacchiere. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. L'Occidente mente spudoratamente, spudoratamente, spudoratamente. Portano via il lavoro, perché non se ne stanno a casa loro? E invece noi, più educati, più liberi, più democratici, più intraprendenti, noi, perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Perché non ce ne stiamo a casa nostra? Bene, andiamo a parlare di punk rock adesso. Loro vengono da Firenze e il loro album si intitola Homemade. La traccia in questione è Figli di Dio e loro sono i Zoo Elephant. Poi andiamo a parlare di un nuovo gruppo e di una nuova net label. La net label è il fronte popolare per la musica libera e loro sono i Frangar No Flactra, con la loro traccia dal titolo La Trappola. E perché no, dalla stessa net label vi ci infilo anche un cantautore di musica pop, Toti Poeta, con la sua Faccio di tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto. Sono il figlio di Dio, è una vecchia storia, cattedrali costruite sull'acqua per addormentare le menti. La chiesa da sempre al servizio dei potenti, cappucci bianchi cercano una storica vendetta, fuori l'extracomunitario mentre snoccioli il rosario. Il sangue scorre nel nome di Santa Polizia, recita dormiente la tua Ave Maria. Questo è il regno di Dio, apri le porte, venghi lo signori un po' di offerte. Volete pulire la coscienza? Spiccioli per il povero Cristo, in benedetta mano di sua eminenza. Siete un esercito di zombie con la Bibbia in mano. Siete un esercito di zombie, incubo ricorrente, loggia inquisizione, mani giunte, mafia e religione. Tanti prelati le purpure sottane occultano orge sacre, gnomi e puttane. Sono il figlio di Dio, spinto a pregare senza coordinate, messo in scena senza ragione, ingoiare il corpo di qualcuno imbevuto nel suo sangue. Vai figliolo, questa è la tua religione. Lussuria, passione, demonio e avidità. Inquisizione, mani giunte, mafia e religione. Da altri prelati le purpure sottane occultano orge sacre. Gnomi e puttane, gnomi e puttane. Yeah. banco di ladri, a volto scoperto, andarono dritti dall'uomo preposto, dalla gente per salvaguardare l'interesse della popolazione. Gli offrirono soldi, un mucchio di soldi, per coprire un mucchio di imbrogli e diventare ancor più potenti, sempre più pochi, sempre più forti. Basterebbe privare la gente anche del loro diritto più grande, perché con lei faccio di tutto. Lei sta alla base del mio organismo e dentro di me, sulla mia pelle, fra le mie labbra, quando siete dentro la terra che coltivo, scende dai monti, piange dal cielo, dona la vita a tutte le creature, acqua, bene comune. Mi lavai di meno per risparmiare, vendetti la terra che lasciai seccare, e vidi la povera gente appassire, e soliti pochi nel loro nuotare. E come una goccia che non cambia il mare, un uomo si accorge di essere uguale. E allora in tanti, con l'acqua alla gola, si unirono forti in una voce sola, e grida che l'acqua non può aver padrone, perché di tutti è un bene comune. Perché con lei faccio di tutto, lei sta alla base del mio organismo, e dentro di me, sulla mia pelle, fra le mie labbra, quando siete, dentro la terra che coltivo, scende dai monti, piange dal cielo, dentro di lei è l'uguaglianza, non è una merce ma una speranza, dona la vita a tutte le creature, acqua, bene comune. Pezzo scaricato sempre dal Fronte Popolare per la Musica Libera. Questa traccia anche è musica popolare e loro sono Fusca, Bernardo e Santese. Attenzione, perché Bernardo è la voce e il chitarrista dei così blasonati Rain. Se pensate che Dio non sia proprio un caro amico, se credete che Dio non sia neanche mai esistito, se capite che è tutta un'invenzione e che la Chiesa ha i diritti d'autore su quel personaggio che fu un uomo fra i tanti, Gesù. Fate bene fratelli, fate bene fratelli, fate bene fratelli. Basta il terrore della morte, il nostro vizio, ma per giunta ogni errore è punito a suo giudizio. E convinti che barcata la soglia, non patiremo nessun'altra doglia, conversiamo fuori posto, aspettando di nascosto. Non mi sembra corretto, ma restate fedeli alla terra, fratelli, col dovuto rispetto. Domando scusa perché, quando son nato, ho peccato, perché mio

poi viriamo verso il rock psichedelico dei Vetronova. La loro traccia è Turismo e loro vengono da Busto Arsizio, Gallarate. A questo punto l'Anomalo Records ci propone Paddy. Paddy è un bel gruppettino che hanno suonato, sentite bene, con gli After Hours nonché con i Scisma. Poi ritorniamo a Milano, nonché ritorniamo dall'Anomalo Records, nonché ritorniamo da Mauro Mercatanti, che lui appunto è un cantatore affine alla logica di Giorgio Gaber. Ci ritorniamo con l'album Infedele alla linea e con la traccia Il contributo. No!

siamo arrivati al momento dei saluti e ci salutiamo con un'altra traccia di Fosca, Bernardo e Santese. La traccia si intitola Roma Underground 1982, tratto dall'album Ballate di fine inverno. E questi artisti mi piacciono in particolar modo, andateli a visitare, leggete la loro storia sul Fronte Popolare per la Musica Libera, perché è una bella storia, diciamocelo. Volevo ringraziare tutti gli artisti che mi hanno permesso la composizione di questo ennesimo podcast e in conclusione volevo ringraziare Suono Fantasma, Anomalo Records, Jamen e di nuovo Fronte Popolare per la Musica Libera, perché tutti i giorni liberamente e gratuitamente ci offrono la possibilità di continuare a sognare. Sento un cazzo. Ma porca puttana. Porco Giuda di barca, ma... Ma allora ho sbagliato proprio. Le nuvole del nord e il freddo del Tirreno, cominciavo quasi quasi a stare male. E così senza biglietto son salito sopra un treno e son venuto giù alla capitale. A Roma! Mi sono ritrovato tutto solo per la strada, non sapevo quale santo ringraziare per avere quel muso duro da anima dannata e senza una ragazza da sbaciucchiare. Le bettole a Trastevere sono piene di coatti, sembra di stare in una gabbia di matti. Divorano panini grossi come materassi, io mangio solo la polvere dei miei passi. Che bella Roma, che bella Roma, con i turisti tutti quanti in coma. Dove si balla, dove si suona. Che bella Roma, che bella Roma. Bravo! Dai, andiamo, andiamo donne che me vecchio. Ci sono troppe macchine e troppi deputati, ci sono troppi preti e troppi matti, ci sono troppi cani, ci sono troppi topi, ci sono troppe volpi e troppi gatti. E forse potrò evitare il cancro e l'eroina, però mi serviranno i nervi saldi. Si sente ancora battere il cuore di Giorgiana sul ponte di Giuseppe Garibaldi. Sì, ma Roma è bella di notte, la Roma underground, la città che non la vedi sotto al sole. Ed è una bambolina, è come un vecchio clown, è una cosa che ti lascia senza parole. Che bella Roma, che bella Roma, con le turiste tutte in perizoma. Dove si canta, dove si stona. Che bella Roma, che bella Roma. Nadia, la dolce Nadia, la potrai trovare nel buio della discoteca punk. Allo sguardo basso mi scruta mentre passo, faccio finta di non vederla e lei lo sa. Conosci gente nuova e la gente qui non manca, ma non è quella della tua gioventù. Ti chiedono cos'hai, perché non parli mai. Allegro dai, e tirati su. E io suono la chitarra in via della desolazione e mangio tramezzini dentro i bar. Dovrei tornare a casa da 3000 settimane, ma non riesco a muovermi di qua. Che bella Roma, che bella Roma, con i ministri incollati alla poltrona, dove si parla, bla bla bla bla, dove si fuma. Che bella Roma, che bella Roma. Senza parole. Direi più musica svansvera. Svansvera. Svansvera. Au, ma. Au, ma. Au, ma. Au, ma. Ah, ah, ah. Si avevano già fermati, ragazzi. L'estate inizia e già qua ci stanno condannando a rogo qui. Chissà che vi sarete persi nel frattempo delle varie. Non so. Minchiate. Mister Campo. Minchiate. Il suo déjà vu. Minchiate. E se ci stanno ascoltandolo. Minchiate. Minchiate. Tu. Tu da solo rovinasti. Assolutamente no, noi non ci troviamo. È il professore. È il professore. Per favore, mister Brontolo. Questo déjà vu ha rovinato. Déjà vu. No, no. No, no, il déjà vu, il déjà vu. No, no, ma no, no, è tipico strumento, eh. Lo so, déjà vu. Io ci dormo insieme la notte col déjà vu. No, no, il déjà vu fa sempre parte della famiglia dei didgeridoo. Sì, è più piccolo. Ah. E si suona con una mano. Ah, e la bocca? Anche sì, sì, anche sì, con una mano sola, no, no, la bocca mi sveglia. Allora io penso che insomma possiamo mandare anche un bel pezzettino, assolutamente, sempre Credit Commons, perché Nart Radio Roma lavora solo sulle Credit Commons, solo quello. Adesso io vi mando un pezzo e poi vi raccontiamo tante cose che dovranno succedere a Nart Radio Roma. Rodio. Nart Radio Ramo.